ti chiede di restare quando vuoi andar via. Se chiama debolezza la tua luminosa fantasia, se decide al posto tuo anche quando dici no, quella stretta alla gola si moltiplica nei suoi però. Se ti guarda come fossi un errore da salvare, se ti vuole solo quando smetti di parlare, se il silenzio presa più di una scomoda verità, quando ascolti quella voce sta coprendo la realtà. Non si chiama amore se ti spinge a chiedere permesso, ti promette un po' di cielo ma ti nasconde nel suo riflesso. Tutto quello che non è amore ti fa sentire sempre in colpa, senza comprendere il perché, vedi che non somiglia a te. Se confonde la paura con il prendersi cura, se ti chiude in un abbraccio che non ha nessuna apertura, se ti chiede di scegliere tra il tuo mondo e il suo, ricorda questa voce, amore, amore, se non è tuo. Se ti dice sei speciale ma soltanto quando servi, se ti ama solo stanca, solo quando ti perdi, se cammini sulle uova per non farlo arrabbiare, quella non è passione, imparare a sparire. Non si chiama amore se ti spegne piano il nome, ti convince ti è normale farsi sempre un po' di male. Tutto quello che non è amore ha sempre fretta di legarti, non sa aspettare mai, ti stringe prima di guardarti. Io non so dirti che faccia l'amore quando arriva, ma so riconoscere ciò che la vita ti toglie. Se per restare devi mentire, se per essere devi sparire, figlia mia, ascolta bene, non è amore ciò che ti fa svanire. Non si chiama amore se ha paura, non ti guarda mentre cresci, ma ti vuole sempre uguale. Tutto quello che non è amore, puoi chiamarlo come vuoi, ma se non ti lascia andare, non ti segue mentre vai. E se un giorno sbaglierai, non chinare la testa, non c'è colpa né porta via con te una frase che ti tenga sicuro. Tutto quello che